Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno per questo giovedì 31 ottobre, giorno in cui scade il memorandum con la Libia sui migranti. Si vuole confermare quell'accordo che, tra le altre cose, oltre che criminalizzare l'ONG, santifica e dà dei soldi con ricercati trafficanti di uomini a livello internazionale come Obagi, questo negriero della Libia che sulla pelle dei migranti lucra e non poco, tra servizi e torture. Di questo parleremo, ma per adesso subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nel web notiziario che ci racconta il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. 3 incendi e proteste, mezzo mondo in fiamme tra Iraq, Libano, Algeria, Tunisia, Brasile, Cile, Spagna, California e non ultimo il castello di Okinawa andato distrutto e un treno in Pakistan con 46 morti. Israele chiuse tutte le ambasciate e consolati del mondo, 25 milioni di dollari al traditore di al-Baghdadi e Twitter vieta le inserzioni politiche, 12 uomini trovati vivi in un camion refrigerante in Belgio e Colombia uccisi 5 leader indigene, clima 300 milioni di persone vulnerabili alle inondazioni entro il 2050 e ancora Afghanistan, i talebani chiedono il rilascio di 80 prigionieri in cambio di 2 ostaggi stranieri. Condannato a un mese di prigione il soldato israeliano che ha ucciso un manifestante adolescente a Gaza. E infine uno studio conferma che i trans che si operano avranno meno problemi psicologici nel loro futuro. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Cile. Oltre al vertice APEC di novembre, il presidente Piñera ha annunciato la sospensione del vertice delle Nazioni Unite sul clima che doveva svolgersi a dicembre a Santiago del Cile. La COP25 era prevista fra il 2 e il 13 dicembre con la presenza di oltre 2.000 partecipanti dalla maggior parte delle nazioni del mondo. Una decisione presa con profondo dolore, ha detto Piñera, spiegando che la preoccupazione principale del governo è ora concentrarsi nel ristabilimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della parte sociale. Durante quel summit, Stati Uniti e Cina avrebbero dovuto firmare un importante patto commerciale. Brasile, 17 narcotrafficanti a Manaus uccisi in scontri con la polizia, appartenevano al cartello della famiglia del Nord. Furioso invece presidente Bolsonaro, che ha negato un qualsiasi coinvolgimento con l'assassinio di una politica. Stanno cercando di collegarmi all'esecuzione, ma non funzionerà, ha detto Bolsonaro, riferendosi alle accuse del gigante dei media brasiliano TV Globo, che lo ha coinvolto nell'omicidio di Mariel Franco, consigliere comunale di Rio de Janeiro. Combattendo contro le lacrime, l'ex capitano dell'esercito ha dato ai media dei putridi in un discorso di 25 minuti pubblicato su Facebook poco prima delle 4 del mattino durante un viaggio ufficiale in Arabia Saudita. Colombia, il presidente Duque ha deciso di dispiegare 2.500 militari in una zona turbolenta del sud-ovest per aumentare la sicurezza dopo che bande di ribelli dissidenti sono sospettate di aver ucciso 5 leader indigeni. 5 della riserva di Tacueyo sono stati uccisi martedì quando il loro convoglio di macchine blindate è stato intercettato da uomini armati che il governo ha detto di essere di una fazione delle FARC che si è rifiutata di accettare il trattato di pace con il governo. Tra le vittime Cristina Bautista, capo e leader spirituale della riserva semi-autonoma, 6 altre persone sono rimaste ferite, mentre gli uomini armati hanno continuato a sparare anche contro le autoambulanze. Stati Uniti, non si placano gli incendi in California, questa volta nel sud-est di Los Angeles è stato evacuato il Ronald Reagan Presidential Library, minacciata dalla violenza delle fiamme, e dove sono sepolti l'ex presidente americano e la First Lady Nancy Reagan. Evacuate 7.000 case, 2 milioni di persone senza luce e gas. Multe salate, rischio di carcere per chi vende il foie gras a New York, considerato troppo crudele il modo in cui oche e anatre vengono fatte ingrassare. Abbiamo preso la decisione di bloccare tutte le inserzioni pubblicitarie politiche a livello globale, lo ha annunciato Jack Dorsey, l'amministratore delegato di Twitter. Questo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione, ha a che fare con il pagare per raggiungere il pubblico più ampio possibile. Questo ha significative ramificazioni che l'architettura democratica di oggi potrebbe non essere in grado di gestire, ha aggiunto Dorsey. I titoli di Twitter in calo su Wall Street dopo l'annuncio. Stai ascoltando Radio Bullets. Iraq, il governo iracheno ha imposto il coprifuoco in tutta la città di Baghdad, sempre notturno, mentre proseguono nella capitale proteste popolari contro la corruzione e il caro vita. Il coprifuoco entra in vigore dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Lunedì scorso la stessa misura era stata annunciata, ma migliaia di manifestanti hanno sfidato il coprifuoco rimanendo in piazza Tahrir per protestare. Sono oltre 250 le persone rimaste uccise dall'inizio di ottobre. Intanto razzi hanno raggiunto la zona verde di Baghdad, non lontano dall'ambasciata americana, morto un soldato iracheno. Turchia furiosi, convocato l'ambasciatore americano ad Ankara, David Satterfield, è stato convocato a seguito della risoluzione approvata dalla Camera dei rappresentanti americani che riconosce il genocidio armeno. Per Erdogan la risoluzione non ha alcun valore, Ankara nega che i massacri di centinaia di migliaia di armeni compiuti durante la prima guerra mondiale dall'impero ottomano siano il frutto di un genocidio pianificato. Siria, inizieranno venerdì pattugliamenti militari congiunti di Turchia e Russia nel nord-est della Siria, concordati a Socia la scorsa settimana tra presidente Erdogan e Vladimir Putin. Il presidente ha aggiunto che risponderà nel modo più duro a ogni attacco che dovesse giungere dalle milizie curde. A Ginevra invece il Comitato Costituzione per la Siria lavora per preparare la riforma costituzionale e le elezioni. Il Pentagono ha pubblicato le prime immagini dell'operazione contro al-Baghdadi, il leader dell'ISIS, dove si vedono uomini presumibilmente americani che si avvicinano al compound. Il Washington Post intanto ricostruisce il profilo dell'informatore che ha permesso di trovare il nascondiglio di al-Baghdadi, si tratterebbe di uno dei suoi fedelissimi che lo ha tradito per vendicare un suo parente ucciso dall'ISIS. Il giornale scrive che riceverà la taglia di 25 milioni di dollari. A convincere gli americani della sua veridicità sarebbe stata la consegna di pezzi di biancheria che portavano il DNA del comandante. L'uomo sarebbe già stato portato fuori dal paese con tutta la sua famiglia. Libano, l'esercito riapre le strade, erano bloccate dal 17 ottobre a causa delle proteste all'indomani delle dimissioni del premier libanese. Sul fronte politico il presidente Aoun ha accettato le dimissioni del premier Hariri, che dice di essere pronto a guidare un nuovo governo ma sotto certe condizioni, tra cui l'arrivo di tecnici che possano implementare le riforme economiche necessarie per placare le proteste. Gaza, l'esercito israeliano ha annunciato di aver abbattuto nel pomeriggio un drone partito da Gaza che volava ad inusuale altezza sopra la striscia. Il velivolo, ha spiegato il portavoce militare, è stato intercettato da aerei di combattimento. Due giorni fa tutte le ambasciate e consolati israeliani in tutto il mondo hanno chiuso di prima mattina, mentre i diplomatici e attaché militari hanno dato il via a uno sciopero per una disputa col Ministero delle Finanze. Lo sciopero è coordinato dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Difesa e dalla Federazione del Lavoro di Istadrust. Lo sciopero è iniziato dopo che il Ministero del Tesoro israeliano ha fatto marcia indietro su precedenti intese e ha detto che avrebbe costretto gli inviati diplomatici a rimborsare migliaia di dollari di rimborsi spese. Un soldato israeliano condannato per l'uccisione di un manifestante adolescente a Gaza ha ricevuto una sentenza di un mese di prigione. Marocco, confermata la pena di morte in appello per i tre imputati dell'omicidio delle turiste scandinave uccise mentre facevano trekking in montagna nel dicembre 2018. Ergastolo per un quarto uomo che ha partecipato all'organizzazione del delitto. Le esecuzioni capitali sono di fatto sospese in Marocco dal 1993 con una moratoria. Luisa Vestager Jesper, danese, aveva 24 anni e Maren Weland, norvegese, ne aveva 28. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Belgio, 12 uomini sono stati trovati nascosti all'interno di un camion refrigerato in un parcheggio vicino a un'autostrada nella provincia belga di Anversa. Martedì sera la polizia è stata chiamata sul posto dall'autista che sospettava che fosse salita a bordo gente sul suo camion di frutta e verdura. 11 siriani e un sudanese sono stati trovati vivi e consegnati a funzionari dell'immigrazione. La scorsa settimana 39 persone sono state trovate morte in un camion sempre refrigerante in Inghilterra. Afghanistan, i talebani hanno chiesto il rilascio di 80 prigionieri, tra cui Anas Haqqani e Hafiz Rashid, due leader della famigerata rete Haqqani, catturati nel 2014 in cambio di due professori stranieri. L'offerta farebbe ripartire colloqui di pace. Stati Uniti-Talebani fermati un paio di mesi fa dal presidente Trump. I due ostaggi sono Kevin King, un americano, e Timothy Weeks, un australiano, rapiti nella capitale nel 2016. Entrambi lavoravano all'American University di Kabul. Pakistan, sono almeno 46 le vittime dell'incendio che ha devastato oggi un treno nel Punjab, probabilmente a causa di una fuga di gas o l'esplosione di una bombola. Una dozzina di persone in condizioni critiche. India, oggi finisce ufficialmente l'autonomia del Kashmir e del Jammu. La Corea Peace Now, un gruppo internazionale dedicato alla causa della fine della guerra in Corea, ha pubblicato un rapporto sull'impatto delle sanzioni sulla Corea del Nord. Il rapporto ha rivelato che ci sono stati almeno 3.968 decessi prevedibili attribuiti a sanzioni nel 2018. 3.193 di questi decessi sono stati minori dell'età inferiore di 5 anni e 72 decessi erano di donne in gravidanza. Il rapporto afferma che le morti sono dovute a ritardi e carenze finanziarie che colpiscono i programmi delle Nazioni Unite che affrontano la malnutrizione acuta grave, i farmaci essenziali di base, la vitamina A, acqua e igiene e kit di salute riproduttiva di emergenza. Il rapporto sottolinea che mentre le sanzioni sono destinate a colpire il governo, i militari della Corea del Nord si sono evolute negli ultimi anni e stanno avendo un impatto devastante sulla popolazione del paese. Giappone completamente distrutto in un incendio di cui ancora non si conoscono le cause. Il principale edificio del castello di Okinawa, patrimonio dell'umanità. L'antico castello Shuri è una delle principali attrazioni turistiche dell'isola a sud-ovest dell'arcipelago e risale al regno Ryukyu, che governò sul territorio per 450 anni prima dell'integrazione di Okinawa da parte giapponese nel 1879. Danneggiato durante i bombardamenti americani nella Seconda Guerra Mondiale, venne parzialmente restaurato negli anni 90 e aperto al pubblico. Restiamo in Giappone perché in meno di una settimana si è dimesso un altro ministro del premier conservatore Shinzo Abe. Si tratta del ministro della giustizia, implicato nello scandalo sui presunti pagamenti al suo staff dalla moglie che non risultano conformi alle direttive. Il ministro ha detto che non era al corrente delle violazioni. Venerdì scorso si è dimesso il ministro del commercio, accusato di aver fatto donazioni ai propri elettori non consentite dalla legge. Clima. 300 milioni di persone saranno vulnerabili alle inondazioni entro il 2050, tre volte più di quanto si pensasse secondo un nuovo studio sul cambiamento climatico. I ricercatori hanno concluso che i precedenti dati di rilevazione del suolo hanno ampiamente sottovalutato la misura in cui le zone costiere saranno soggette a inondazioni durante l'alta marea o forti tempeste. Ben Strauss, capo scienziato del Climate Central, un gruppo di ricerca con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato: le proiezioni sul livello del mare non sono cambiate, ma quando usiamo i nostri dati di rilevazione troviamo molte più persone che vivono in aree vulnerabili di quanto precedentemente capito. E concludiamo con i transgender. I trans che optano per un intervento chirurgico, secondo uno studio, avranno meno problemi psicologici in futuro. Uno studio pubblicato sull'American Journal of Psychiatry conferma quello che molte persone transgender hanno sempre affermato: l'assistenza medica con l'ormone appropriato e l'intervento chirurgico portano a una riduzione dei problemi di salute mentale. Sappiamo che i transessuali rischiano una sofferenza psicologica più elevata rispetto alla popolazione generale a causa dello stress correlato allo stigma e allo stress associato a una mancanza di affermazione della loro identità di genere, ha detto il coautore dello studio John Pachankis in un comunicato della Yale School of Medicine, non possiamo più dire che ci mancano le prove di alta qualità dei benefici degli interventi chirurgici per l'affermazione di genere degli individui transgender che li cercano. E anche da parte nostra per oggi è tutto, un saluto, in particolare oggi a mostri, streghe e stregoni che ci ascoltano. Buon proseguimento di giornata, buon Halloween a tutti, noi ci risentiamo domani con Paola Mirenda e una nuova raffica di notizie. Something everybody everywhere does in the same language. Well, I can see by your coat, my friend, that you're from the other side. There's just one thing I got to know. Can you tell me, please, who? Purple berries, I've been eating them for 6 or 7 weeks now. Haven't got sick once. Probably keep us both alive. Yeah. Wooden ships on the water, very free. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver people on the shoreline, leave us be. Very free and easy. Sail away where the morning sun goes high. Sail away by her hand, lead her far from this barren land. Horror grips us as we watch you die. All we can do is echo your anguish cry. Stare as all your human feelings die. We are leaving you, don't. testimonio. 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un pinsimonio di sdegno. Le parole odierne sono stigmatizzare, esecrare, deprecabile, deplorevole e increscioso. Cominciamo con stigmatizzare, che in senso antico significava proprio imprimere le stimmate e da qui per estensione significa marchiare o segnare. Altrimenti, in senso figurato, significa biasimare con frasi aspre e taglienti, quasi a imprimere un marchio, stigmatizzare il comportamento o le decisioni di qualcuno. Da qui andiamo a esecrare, che significa detestare, avere in orrore una persona o una cosa che siano moralmente ripugnanti, esecrare i traditori della patria. Da qui il participio passato esecrabile, utilizzato come aggettivo. Continuiamo con deprecabile, che propriamente significa che si può scongiurare, tenere lontano con preghiere. Nell'uso comune invece deprecabile si dice di un fatto che si desidera non accada, di una cosa che si vorrebbe scongiurare, oppure anche di cosa che si giudica degna di biasimo, di grave riprovazione. Il suo comportamento è davvero deprecabile. Simile a questa parola è deplorevole, che si dice di qualcosa che merita e suscita deplorazione, cioè riprovazione e condanna. La vostra condotta è stata veramente deplorevole. In senso proprio indica una cosa degna di compianto e di pietà, ma è ormai di uso raro, mentre il termine è ancora vivo col significato di miserevole o pietoso, in cui al senso del compatimento si aggiunge spesso anche quello della riprovazione, il deplorevole abbandono in cui sono lasciati tanti monumenti artistici. Concludiamo con increscioso, che si dice di qualcosa che incresce, che è molesto, tedioso, sgradito, un incarico increscioso. Nell'uso moderno si dice soprattutto di un fatto che provoca vivo dispiacere o che appare anche moralmente grave o riprovevole. C'è stato un increscioso malinteso. E ora potete usare questi termini per commentare i fatti di cui si parlerà nella rassegna stampa. Buon proseguimento con Radio Zanardi. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fogico oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa. Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia probabile, un amore che non vale più. E poi verso sera li vedi, tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere. Ballo anch'io se balli tu. Laggiù nel paese dei tropici qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi verso sera li vedi tutti a caccia, una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Segna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove 30 minuti di questo 31 ottobre, ultimo giorno del mese che ci accoglie con l'autunno ritrovato dopo questa lunga estate legata chiaramente alle variazioni del clima, ma purtroppo non cambia il clima sul terreno della migrazione, perché il manifesto oggi apre con memoria corta. A due giorni dalla scadenza del memorandum con la Libia sul respingimento dei migranti, il governo è in alto mare. Il tavolo asilo viola i diritti umani, deve essere stracciato questo accordo. Il PD va rivisto con un certo imbarazzo, perché l'accordo, ricordiamo, risale al tempo di Minniti e non solo di Salvini. Ma Di Maio frena, l'assistenza alla Guardia Costiera va mantenuta. E allora questa Guardia Costiera fa scrivere l'apertura dell'Avvenire, giornale cattolico molto attento alle questioni dei diritti dei migranti, patto col diavolo. Roma verso la conferma dell'intesa con i libici, Di Maio evoca alcuni correttivi. Ma perché il diavolo c'ha un nome e un cognome? Perché, racconta il Corriere in un trafiletto, la talpa del califfo riceverà 25 milioni. Questo è il riguarda la pubblicità internazionale, mentre riceverà altrettanti soldi anche questo Baggi, questo trafficante di migranti internazionali che è stato accuso anche sotto l'ONU e che invece è al centro degli accordi con la Libia. Questo va sempre la pena di ricordare chi finanziamo, mentre magari multiamo gli ONG, le sequestriamo le navi o quant'altro. Altro. E allora l'iniziativa dell'associazione del tavolo asilo, il memorandum Italia-Libia deve essere cancellato, e i giornalisti dello Scavo e Nancy Porzia hanno indagato su Bija, di cui prima citavamo questo califfo che prende i soldi, comandante della guardia costiera di Zawita, quindi è un uomo di responsabilità questo uomo trafficante, sotto scorta per minacce ai trafficanti libici finanziati da noi. Cioè, chi ha fatto gli articoli su di lui è lui sotto scorta. Questo è nello Scavo di due giornalisti dell'Avvenire. Abbiamo sempre sostenuto questi personaggi, quello che non sappiamo è quanti soldi pubblici sono stati spesi. Sì, si litiga se c'è uno che c'ha il Porsche, c'ha il reddito di cittadinanza, questo è il grande scandalo, mentre chiediamo un pacco di soldi a uno che traffica sulla pelle dei poveracci, questo non ci fa nessun schifo, anzi. Sbarcano i migranti dell'Ocean Viking, ma altre due navi restano senza porto. In Mediterraneo, per l'Alan Kurdi e l'Open Arms, ancora non si trova una soluzione. Questo è il manifesto. Mentre il giornale invece ha un altro titolo, Conte si prende anche gli immigrati della Merkel, frontiere aperte. Roma cede la Germania, ne arriveranno 50 al mese. Naturalmente questo è legato al fatto della computa, è anche giusta percentuale della popolazione residente rispetto a quella migrante, quindi è la sua necessaria ridistribuzione progressiva e giusta. Comunque per il giornale naturalmente è un cedimento a Macron, la Merkel e quant'altro, è quella porzione populista nazionalista del giornale. E comunque, siccome dopo anche lo smacco umbro in qualche modo c'è un riposizionamento almeno a litigate tra le varie forze che in qualche modo prendono parte al governo Conte, anche qua c'è quei giornali segnalano che c'è discordia tra 5 Stelle, PD e Leu, Roma, i migranti e la Libia, rinegoziare l'accordo, no rinnovo automatico, Di Maio, i centri di detenzione siano più umani, che non vuol dire assolutamente nulla, è una dimaiata, tanto per dirla, perché o si va lì e si allontanano le milizie che controllano il traffico delle persone, oppure che senso ha dire che siano più umane quando sono centri, tra l'altro sono in tiro incrociato di una guerra civile pienamente in corso. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e a tutti. Questa pioggia che bagna Bologna ha migliorato l'aria che respiriamo. Questa rassegna stampa 9:34 minuti primi, continuiamo con l'esame delle prime pagine dei giornali. La Stampa ha proprio come notizia di prima pagina migranti e informazioni fanno venire scintille tra PD e Di Maio. Infatti Di Maio alza la voce e batte il pugno sul tavolo e dice basta alleanze locali e pugno duro con i migranti, scintille nella maggioranza anche su Radio Radicale, sì, del Senato alla commissione segre anti-odio. Questa è la notizia di prima pagina che viene ripresa anche da Repubblica, da pagina 6, c'è un articolo di Goffredo De Marchis che sottolinea la manovra del governo in Europa per aprire centri in Unione Europea a Tripoli. Il piano è dirottare 9 miliardi del bilancio per accogliere in Libia e gestire i corridoi umani. L'apertura di Borrell, neo ministro degli esteri a Bruxelles. Il Movimento 5 Stelle resta cauto sui cambiamenti al memorandum che ha presentato appunto Di Maio. Il governo studia una proposta sui migranti, sono i centri di accoglienza in Libia sotto l'egida dell'Unione Europea e ha bisogno di sostegno degli stati membri, ma il clima oggi sembra più favorevole. Per 15 mesi, ricorda il ministro degli affari europei Enzo Amendola, non abbiamo parlato con i vertici di Bruxelles, è il momento di ricominciare a farlo. E c'è il concetto del vecchio che ci illustra le tappe dell'accordo sui lager libici. C'è stato un memorandum d'intesa Italia-Libia che venne firmato nel 2017 a febbraio dall'allora ministro del Consiglio, dal Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Gentiloni, e la conciliazione nazionale libica con al-Serraj. Poi ci furono aiuti economici, l'Italia forniva aiuti economici a supporto della Guardia Costiera Libica per contrastare l'immigrazione illegale e i centri di accoglienza si sono rivelati alla fine dei lager, dove sia le Nazioni Unite che le organizzazioni umanitarie hanno accesso in maniera molto limitata. Secondo diverse fonti la Guardia Costiera Libica sarebbe formata in parte colluse con i trafficanti. E fa il paio con questa notizia anche la notizia del razzismo, sì alla commissione anti-odio, e viene votata contro da tutta, no, viene non votata dalla destra. La proposta passa, la proposta di Liliana Segre per il contrasto al razzismo e antisemitismo, la Lega, Forza Italia e FDI, Fratelli d'Italia, si astengono. Il Partito Democratico alza le braccia e dice vergogna, l'ira di Mara Carfagna, stiamo tradendo i nostri valori. La senatrice a vita verso la presidenza dell'organismo di appunto di questa commissione è delusa per la mancata unanimità. Speravo in una sintonia comune e volevo anche segnalare un articolo di fondo di Henry De Luca che parla di razzismo e lo fa nei confronti di Salvini, che Salvini ha posto un interrogativo su chi che cos'è il razzismo. Perché è probabilmente una delle persone che sono più all'oscuro di questo significato. Non me ne voglia anche Maurizio di Prezzemolo, se faccio questa breve parentesi sulla nozione del dizionario. Trattasi dell'infondata credenza per la quale esisterebbero razze di specie umana biologicamente superiori, e stupirebbe che un pubblico ufficiale, magari sopra pensiero, vi si collocasse. Nel nostro caso e locale si tratta di sentimenti di avversione basati su appartenenza ad aree geografiche. Ad esempio, razzista è il sentimento di avversione che si manifesta con atti di sopraffazione compiuti su persone in base al colore della pelle, credo religioso. Per natura vigliacca, il razzismo si sfoga solo in schiacciante superiorità numerica, molti contro uno è la sua combinazione preferita. Razzista è il Ku Klux Klan, e in economia la rinuncia all'impiego di manodopera immigrata a basso costo è un atto di autolesionismo. L'Ungheria è il caso più patetico di un governo costretto a obbligare per legge i propri connazionali a oltre 400 ore di straordinario all'anno per sopperire il deficit di lavoro. Da noi il supplichevole slogan, conclude Harry De Luca, prima gli italiani, non riesce a convincere la nostra manodopera a lavorare nei campi a 3 euro all'ora dall'alba al tramonto. La generosa precedenza accordata non è sufficientemente apprezzata. Gli imprenditori agricoli si trovano costretti malvolentieri a impiegare i secondi e i terzi, visto che i primi non si presentano. Sì, è Commissione 6 che le centrodestre sostiene, dice il giornale. Che puoi fare? Dalla voce a Salvini, ovviamente. Dice sull'antisemitismo non si discute, altrimenti Salvini intende filosionismo, filo essere Israele, questo è l'antisemitismo. Ma io mi becco di razzista perché dico di controllare gli sbarchi. Non è questo comunque il nodo del contendere di questo voto in Parlamento. I Faeco Giambattista Fazzolari, di Fratelli d'Italia. Non è una commissione antisemitismo, vogliamo far credere, ma una commissione volta alla censura politica, dice il col pretesto e contrasto all'antisemitismo. E infatti il commento è: non razzismo ma niente censura. Non ci sta la Carfagna che prende le distanze. La mia Forza Italia, una cosa del genere. La mia Forza Italia, scrive la Carfagna, dissidente da Berlusconi, la mia casa, non si sarebbe mai astenuto su un voto sull'antisemitismo. Stiamo tradendo i nostri valori cambiando pelle. E appunto, in versione populista. Mentre il PD Fiano dice una vergogna. 98 senatori che non hanno votato a favore sono tutti appartenenti ai partiti dell'opposizione. Anche perché da una parte prepariamoci a un'altra sfilata di senso comune nazional popolare razzista di destra, come quello che celebrerà il 4 novembre. Festa che viene chiamata della vittoria, è un lutto internazionale per quel massacro di popoli inermi che fu la prima guerra mondiale. Gente chiamata al massacro per fare i potenti e il potere delle caste governava l'Europa, niente più, niente di meno. I fascisti il 4 novembre, scrive Alberto Fassolo da Contropiano, giornale comunista, che evidentemente ne idea molto diversa, la Fratelli d'Italia. Dunque, da molti anni le organizzazioni post-fasciste e neofasciste stanno dedicando grandi sforzi alle celebrazioni del 4 novembre, purtroppo non solo quelle. Comunque, giorno in cui in Italia si festeggia la vittoria della Prima Guerra Mondiale, ci potrebbe apparire coerente con la retorica nazionalista dei fascisti, ma stride pesantemente con la storia. A differenza di quanto oggi si racconti, il fascismo tradì le conquiste ottenute con la Prima Guerra Mondiale. È stata una vicenda oscurata dai revisionisti, ma su cui vale la pena soffermarsi, tanto per riaffermare la realtà quanto per contrastare operazioni politiche reazionarie. Questa in Italia nel 22 Mussolini prese il potere, mentre in Germania Hitler lo ottenne nel 33. Nel farneticante disegno di politico di Heil Hitler era prevista la costruzione della Grande Germania o Terzo Reich, che tra gli altri includesse i territori di quelli che erano stati esempio l'impero austro-ungarico, cioè programma del capo di quel governo tedesco era prevista l'annessione di territori facenti parte dell'Italia. Normalmente ciò basterebbe a congelare qualsiasi rapporto diplomatico, invece Mussolini decise di stringere un'alleanza con Hitler. Dal 36 si cominciò ad utilizzare la locuzione asse Roma-Berlino. Mussolini si mise così a dare forma all'intesa che con chi voleva impossessarsi di una parte dell'Italia. Questo alla faccia del Vate, l'operazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma più miseramente, meno storicamente, andiamo ad Ascoli Piceno. Ascoli, tema cena sulla marcia su Roma, bufera su Fratelli d'Italia.

protesta della Federchimica, ricadute devastanti sugli investimenti, perché naturalmente sono quelli che sono i tassati quando producono le cartine o quant'altro. Manovra, misure, tensioni, racconta il Corriere della Sera. Zingaretti scuote il PD, la destra ha intercettato lo sbarrimento degli italiani, ma non è una cosa particolarmente nuova. Più tasse su filtri, cartine per chi fuma, stangata sulle auto aziendali, lite sui fondi a Radio Radicale, conferma anche il Corriere che sto leggendo. E questo ci porta quindi ai conti di Conte del Manifesto. La legge di bilancio è pronta, ma per ora la coalizione non c'è. Superato l'ostacolo della flat tax per le partite IVA, la manovra in Senato la settimana prossima. Arriva invece la tassa, appunto, conferma il Manifesto, su filtri e cartine. Senza un sentire comune vengono meno le ragioni del governo, questo è Nicola Zingaretti. Mentre i presupposti per un'alleanza strutturale col PD non ci sono, questo è Luigi Di Maio. Mentre al di là delle tasse o non tasse, che quello che si impone giustamente rimprovera la manovra di essere povera, di avere sostanzialmente, forse non so se era possibile fare altrimenti o meno, sicuramente si potevano tagliare le spese militari, pagato il debito per non far balzare in avanti l'IVA, ma sta di fatto per il resto è una manovra così che vola basso, di ragioneria, chiamiamola così. Le cose invece sono più che gravi all'ombra di questo governo. Per esempio il riordino delle carriere, racconta il Manifesto, che noi ci spostiamo per un attimo dall'economia. Alla polizia penitenziaria più poteri che ai direttori, e il carcere giallo-rosso, quindi più che all'amministrazione si porta il potere all'aspetto poliziesco. Un modello securitario nei decreti legislativi in via definitiva di approvazione. Sì, ancora sulla manovra, prendiamo pagina 2 del Carlino, sprint sulla manovra e dopo un braccio di ferro, la lunga maratona Palazzo Chigi, poi il compromesso Di Maio, siamo soddisfatti, ma miglioreremo il testo in Parlamento. E subito nella pagina successiva un articolo di Antonio Troise dove ci fa l'elenco delle tasse, la sugar tax 10 euro ad ettolitro sulle bibite analcoliche, la plastic tax, una bottiglia costerà fino a 6 centi in più, questo balzello partirà a giugno, 1 euro al chilo in più alla produzione sugli imballaggi di plastica, le partite IVA rimandate alla stretta, resta il forfè comunque al 15% sotto i 65.000 euro. E c'è questa novità del caro fumo, 0,005 l'aumento per ogni cartina contenuta nelle confezioni, quindi 25 centesimi a pacchetto, 5 euro è l'incremento del prezzo al chilo per il tabacco lavorato, e nessun rincaro sulle sigarette elettroniche. E poi ancora addio al super ticket, la manovra del 2020 conferma 2 miliardi di euro in più per l'abolizione del super ticket appunto nel 2020. Ci sono anche contributi per la manutenzione degli impianti sportivi e sconti fino al 2020 anche per gli immobili e la casa, niente stangata per chi affitta e compra casa e deduzione per chi provvede alle facciate. Questo è il succo della manovra, ma c'è appunto pagina 5 un articolo di Alessandro Ferruccio sempre sul Resto del Carlino che annuncia il grido dei costruttori, la burocrazia ci sta uccidendo e gli appalti pubblici continuano a essere in fase di stanca. Ancora a livello di notizie di cronaca, annunciata per oggi la fusione tra FCA e Peugeot, e ci sono comunque prospettive di grandi affari, questo lo apprendiamo dal Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, e le azioni del mercato borsistico diventano altissime. E ancora notizie sempre di cronaca e poi arriviamo alla Stampa, e ancora ci dà il là per iniziare a parlare anche di ambiente, altro argomento del nostro giornale. E in busta paga 40 euro in più al mese, e Gualtieri stima l'effetto del taglio del cuneo fiscale. entra la tassa sui filtri, esce l'aumento delle imposte di registro, appunto i provvedimenti sui temi ambientali sono plastica monouso, stretta sui bus e tiri inquinanti. E a Torino la linea 2 della metro verrà improntata e presto costruita, e tra i provvedimenti c'è anche il rinnovo del parco auto delle aziende in chiave green per la pubblica amministrazione. Nel corso del vertice di maggioranza la manovra è rientrata, parte il pacchetto della pubblica amministrazione proposta da Fabiana Dadone. Tra le norme, quella che prevede dal 2020 l'acquisto e il noleggio di nuove auto almeno per il 50% ibride o elettriche. E c'è un'intervista a Vincenzo Visco, l'ex ministro delle finanze, sempre dalle pagine della Stampa, a cura di Carlo Bertini. Vincenzo Visco dice che evitato l'aumento dell'IVA non si possono fare miracoli, quindi una piccola manovra di comporto, di riporto di questi conti davanti alle autorità della Comunità Europea. Sì, tu citavi per quanto riguarda l'automobile, il matrimonio FCA Peugeot. Naturalmente i giornali nostrani celebrano questa cosa come un grande avvenimento di grandissima politica industriale. FCA Peugeot sì dei consigli e la borsa premia le nozze, perché quando c'è la borsa e si dice sì, è comunque un fatto positivo. Poi si scopre che non è vero, però immediatamente, ah, com'è andata bene. Verso una fusione tra uguali, c'è anche, manca solo libertà e fraternità, poi siamo a posto. Da 50 miliardi. Il ruolo del governo francese: in Francia le sedi per le auto più diffuse, in Italia per quelle di lusso, Jeep e Ram negli USA. Insomma, l'Italia come sempre fa il nino di coda, sostanzialmente. Auto elettriche sfidi in Asia, ma la partita si gioca sugli impianti da chiudere, perché particolare così en passant, ci sono a rischio tanti tanti posti di lavoro. E allora qui c'è una notizia che la dice bene sul tempo che viviamo, arriva questa mattina. FCA PSA, il Codacons vigili l'antitrust. La fusione tra FCA e PSA rischia di avere ripercussioni negative per i consumatori in quei settori auto nei quali le due società hanno finora operato in piena concorrenza, il Codacons. E sinceramente, voi pensate quanto conti il Codacons o un authority di fronte a una fusione plurimiliardaria, transnazionale, di multinazionali? E mi ricorda molto la barzelletta della pulce e dell'elefante. Non la sto a raccontare perché è un po' volgare, ma insomma, questo è. Immaginate voi chi fa la parte dell'elefante, chi fa la parte della pulce. Comunque, per un attimo rimango ancora alla politica, perché il fatto è quotidiano politica, poi alla pseudopolitica, i nuovi forchettoni, ma quanto mangiano questi leghisti, quelli ladroni più gli altri. La sentenza condanna Salviniani, Rixi e Bruzzone per spese private accollate alla regione, le cene e i pranzi dei politici li paghi lui e non lo Stato. Queste sono le famose regioni virtuose che la Lega dice noi amministriamo bene. Ma andiamo avanti allora, con un commento invece secco del Manifesto su Di Maio, passiamo ai 5 Stelle, di Piero Bevilacqua. Di Maio vuole farsi da parte e i 5 Stelle svoltare a sinistra. Ma bisogna dire se i 5 Stelle sono d'accordo su questo. Ma comunque, facendo i conti senza l'oste, veniamo allora a Greta Thunberg, che tu prima citavi, evocavi il tema del terreno ambientale, come sempre importantissimo, come sempre molto spazio al nostro emittente. Beh, vediamo un po' di coerenza, in base ai forchettoni abbiamo parlato. Leggiamo questa. Premio Nordico, clima, Greta rifiuta 46.000 euro, il vostro impegno non basta. Sicuramente Buzzone non aveva mai rifiutato 46.000 euro. Dunque, la giovane ambientalista svedese Greta Thunberg, racconta il Fatto Quotidiano, ha rifiutato un premio offerto dal Consiglio Nordico con il relativo assegno di 500.000 krone svedesi, ovvero sia 46.000 euro, affermando che il movimento climatico ha una visione di ulteriori premi. E questo, credo che, però notizia piccola, perché invece che Tagamber, anche la manovra, perché è malata o altre storie, le vediamo in abbondanza. Mentre il Corriere riprende oggi i temi che questo movimento ci riporta alla mente. Per esempio, 2050, sott'acqua in 300 milioni, questa è una grande apnea potremmo dire, e il mare ci mangerà Venezia e Mumbai. Il Nature è 3 volte peggio del previsto. Che ormai siamo abituati a dire che è 3-4 volte peggio del previsto, e 5 volte più veloce del previsto. Gli oceani acceleranno di 10 cm entro il 2100. Dunque, e c'è l'iceberg, il bianco che sfuma nell'oceano, perché c'è un grande iceberg che ho fotografato qualche anno fa, e adesso è un cubetto da metterci il drink. Questo è tutte cose che non ci facciamo mancare nulla. E allora su questo entriamo nell'extraterrestre, inserto del Manifesto del giovedì. Parla dell'oro di palma. Uscito dalla porta, l'olio di Parma era entrato dalla finestra, crollato l'uso nell'industria alimentare e dopo martellanti campagne adesso viene massicciamente utilizzato e soprattutto per produrre biocarburante. Va tutto lì, che di biologico però ben poco. La corsa delle compagnie petrolifere all'oro giallo, cioè l'oro di Palma, ha intensificato la monocultura in vasta area del mondo, consumando migliaia di ettari di foreste in molti paesi. Insomma, come dire, a rieccoci, quindi l'olio di palma dalla tavola alle automobili. Così la palma, facciamo una foresta tra le tante, la palma intensiva, questa raccolti così, ha sconvolto cosa? La Colombia. E dicevamo ieri che la Colombia è in una crisi economica totale. Sì, ancora un breve flash sull'ambiente, riparlando di questo accordo lampo nel mondo del metalmeccanica dell'auto fra FCA e Peugeot, e questo nuovo colosso, pagina 3 di Repubblica, tuona con "il futuro è elettrico", un articolo di Paolo Griseri, e ci dice che Parigi ha la supremazia dei veicoli verdi, mentre il lingotto apre ai partner del mercato USA insieme a più investimenti e a una guida autonoma, appunto, con il radar. E ancora, per parlare di elettricità e di ambiente, citiamo le pagine finali di Repubblica, pagina 40 e 41, che ci parla delle reti digitali di energia elettrica. Più veloce che mai, l'energia sarà un po' di tutti. Si punta alle rinnovabili per condividere un modo intelligente per l'energia autoprodotta. In Italia ci sono 700.000 produttori consumatori, questo famoso termine coniato, i prosumer. Nei prossimi anni ci saranno delle vere e proprie comunità energetiche costituite dai prosumer, appunto, che contemplano al loro interno aziende, enti pubblici e perfino condomini. Questa sarà il futuro delle energie, e in particolare delle energie rinnovabili. Ma per quello che riguarda invece le energie fossili, una notizia la apprendiamo dal Sole 24 Ore, ed è un via libera che la Danimarca ha dato al gasdotto, al grande gasdotto che parte dalla Russia di Putin. E guarda caso non passa dalle zone di guerra in questo momento, in questo caldo problema geopolitico del Medio Oriente. Cade l'ultimo ostacolo rimasto per terminare il gasdotto russo-tedesco. Si complicano i negoziati sul rinnovo del contratto di transito attraverso l'Ucraina, che appunto verrà bypassata da questo grande gasdotto, che farà arrivare in Germania e poi nel resto dell'Europa questo combustibile fossile. Ok. E allora, per quanto riguarda il clima, guardiamo fuori dalla finestra, l'autunno, e quindi intrecciamo l'esistenzialismo di Jean-Jacques Paul Sartre e di Gilles Gréco con un po' di Napoli, di Scarpetta e di Fred Buongusto. Bravo. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Que strano mondo, io nuost, e te voglio bene, e tu te ne vai. Ma la mer è farsa sur le sable, les pas des amants réunis. Sera triste. Che chiare luna, tu che non parli, non parlai. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui de me. Mitica Juliet Gréco, ma per creare un ponte tra l'ambiente e il lavoro, parliamo di ponti e di opere pubbliche. Vigilanza, con Virgilia Della Sala dal Fatto Quotidiano. Agenzia per la sicurezza, l'ANSFISA non decolla e le tagliano pure i fondi. Dovrebbe coordinare i controlli di autostrade e ferrovie. Il disegno di legge fiscale disloca le risorse nel 2019. Dopo il Morandi di tutto ciò, ora tutto dipende dall'approvazione del regolamento e dalla firma su un decreto interministeriale. Devo dire che per quanto riguarda la sicurezza, nella mobilità, il focus si sposta sui PM milanesi nel giorno dopo l'avviso di chiusura delle indagini per il disastro di Pioltello, un disastro ferroviario con 3 morti. Pioltello, il guasto era già noto nell'agosto del 2017, il famoso, se qualcuno si ricorderà, tassello di ferro messo lì a mo' di toppa, prima o poi lo cambieremo, e purtroppo prima di essere cambiato ha creato il deragliamento con il disastro. L'unico treno diagnostico è fermo da 13 anni, dei treni che non girano per capire i guasti delle ferrovie. 25 gennaio 2018, la tratta era a rischio, il convoglio avrebbe dovuto viaggiare a non più di circa 50 km orari. Sì, ancora un paio di notizie buone dal mondo del lavoro. Napoli, all'ultimo giorno utile, l'azienda blocca l'operazione stop alla cessione. Il ministro Patuanelli, ora troviamo una soluzione. L'annuncio arriva a sorpresa, la Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli a comunicare la notizia ai 413 dipendenti. È un primo passo che ci consente di risederci a un tavolo per trovare la risolvere definitivamente il problema dello stabilimento. E ancora un'altra notizia, sempre dal mondo del lavoro, è una notizia locale, è anche questa positiva. La Perla, invece dei 126 esuberi a Bologna, 65 in cassa integrazione e incentivi a chi va a casa, la regione troverà lavoro a una parte, l'intimo non verrà ridimensionato, niente licenziamenti ma cassa integrazione per un anno a 65 persone con incentivi economici per chi lascia l'azienda. Si basa su questi punti l'accordo raggiunto per la Perla, l'ultimo, la società dell'intimo del lusso bolognese che a giugno viveva sotto la spada di Damocle di 126 licenziamenti avviati dalla proprietà e la società anglo-olandese Tenor Holding, all'IA ora ritirati. E i sindacati dicono evitato un taglio drammatico. Bonaccini, presidente della regione, dice la soluzione è ragionevole e vigileremo sull'attuazione. Questa era la seconda buona notizia. Oggi 31 ottobre, Halloween, voi non ci vedete, siamo purtroppo solo una radio, ma io sono pitturato da stregone mentre il mio amico Andrea da scheletro. Scheletro. E siamo qui pronti a dire dolcetto e scherzetto. Allora, per celebrare questa giornata andiamo a Luigi Ippolito, il memoriale della Scozia per la strage delle streghe. Questo per ricordarci cosa significa poi in realtà. Torture, esecuzioni, morirono 2500 donne. In molti hanno scritto che la lotta di classe nel Medioevo, per esempio, era legata appunto, passava per la questione della stregoneria delle donne. Colpite perché vulnerabili. L'idea di un monumento nazionale a distanza di 400 anni dall'ultima vittima. Questo è le persecuzioni. Dunque, le stime più accreditate parlano di 4.000-6.000 persone processate in Scozia, solo in Scozia, nel corso di 70 anni, nei quali 1.000 e 1.500 furono torturate e giustiziate tramite strangolamento, poi bruciate. Era il 1542 e il 1735 furono emanati ben 6 Whitecraft Act. Questo è il quadro. Dolcetto scherzetto? Questo è quello. Ma veniamo invece ai tempi nostri. Andiamo in Iraq, e quindi Bella Ciao ai porti occupati, gli iracheni non hanno paura, e non aver paura in Iraq, cioè, bisogna essere abituati al terrore, perché altrimenti con quello che la mattanza è continuata. Piazze piene nonostante i 250 uccisi, al-Sadr cavalca la protesta, l'appello del Papa di tenere presente le condizioni degli esclusi. L'Arabia sciita preoccupa l'Iran. Ieri il generale Soleiman è volato a Baghdad, perché gli sciiti, che adesso in qualche modo governano Baghdad, non vogliono di parlare di mobilitazioni popolari perché si sentono minacciati nella loro geopolitica. Spostandomi poi in altri temi, abbiamo questo aspetto che arriva dal Fatto Quotidiano, dove si dice che non solo l'Iraq ma anche il Mediterraneo è in fiamme, contro le caste al potere senza distinzione di età e religione. Allora si ricorda appunto il coprifuoco a Baghdad, e si parla anche di Hezbollah, veniamo al Libano, e la sindrome del complotto straniero. Nasrallah non crede alla rivolta popolare. Naturalmente in questo caos sociale totale è evidente che chi è ostile, che l'opposizione sia all'interno che all'interno a livello esterno, cerca di enfatizzare la rivolta. La provocazione del leader sciita, chi finanzia i dimostranti, ci sosteniamo con le nostre forze, gli hanno risposto. E allora il Libano, il braccio di ferro Hariri Hezbollah, vi è raccontato anche dal Manifesto con Michele Giorgio. Dopo le dimissioni presentate giorni fa dal premier sunnita Saad Hariri, il Libano sembra per la prima volta in due settimane tornare alla normalità. Oggi riaprono le scuole ed altrettanto faranno domani le banche. L'esercito ha provveduto a sgombrare quasi tutte le arterie stradali. Ma del Libano parla anche la nostra redazione con un servizio che va a sentire parole di Giuseppe Russo, coordinatore per il Medio Oriente GVC WeWar. Sentiamo la sua descrizione di quello che succede adesso in Libano. Siamo arrivati a questo punto attraverso un percorso che, per quello che è il Libano, è un percorso eccezionale, unico nella sua storia, dove la gente in un momento di crisi economica molto forte si è unita a manifestare spontaneamente nelle strade, soprattutto contro l'inefficienza del governo e del sistema settario del Libano, una classe politica presente dalla fine della guerra civile praticamente. È stato spontaneo e enorme, ma la cosa più impressionante rispetto alle manifestazioni del 2005 o quelle di 4 anni fa sul problema della spazzatura è stata la localizzazione delle manifestazioni in tutto il paese, sia al sud che nella valle della Bekaa, che nel nord, in tutte le comunità sciite, sunnite e cristiane. È un'unità che non ha precedenti nel paese in una richiesta di cambiamento totale del sistema politico. La miccia che ha fatto detonare insomma le proteste è questa tassa su WhatsApp? Ma questo mi sembra è stata presa questa miccia, così è stata indicata. In realtà c'è stato poco prima dello scoppio delle manifestazioni un grandissimo incendio che ha distrutto una parte del paese, lo Shuf, una delle poche parti verdi del paese, dove si è dimostrata l'inefficienza da parte del governo nel poterlo gestire, con la notizia che c'erano alcuni aerei per spegnere l'incendio che non potevano funzionare perché non sono mai stati mantenuti nel passato, e in parallelo una crisi economica che stava scoppiando con rischio di default del paese, e quindi alcune manifestazioni anche nelle domeniche precedenti erano avvenute. Poi sicuramente la scintilla finale è stata la legge di bilancio, in cui si proponevano tassazioni sui cittadini per recuperare il debito pubblico, tra queste quella su WhatsApp. Quindi insomma, vabbè, questo ovviamente magari è, come dire, il taglio giornalistico che cerca, secondo me sì. Però insomma è significativo, come dire, di misure di austerity che piegavano ulteriormente la popolazione. Assolutamente, che colpivano la popolazione. Infatti il primo motto delle manifestazioni è stato: non è giusto che paghiamo noi i debiti creati da una classe politica che non è stata capace in questi anni di mantenere la situazione economica del paese a un certo livello. E dal di lì poi è nata la richiesta di fare cadere completamente tutta la classe politica, governo e Parlamento in realtà. Abbiamo visto ieri anche però che Amal e Hezbollah hanno attaccato i manifestanti. Ci sono stati alcuni scontri che ovviamente erano temuti. Il Libano è un paese molto complesso e ci sono tutte le fazioni politiche, hanno comunque anche delle fazioni armate. Nonostante gli appelli ufficiali da parte dei leader politici dei suoi partiti sono sempre stati di mantenere distanza e rispetto per le manifestazioni, ci sono stati questi gruppi che hanno attaccato, in particolare ieri, in maniera abbastanza violenta, anche se non esagerata comparata con la dimensione della manifestazione. Sicuramente sono stati atti gravissimi, però sono terminati immediatamente. È stato molto interessante vedere come l'esercito e la polizia libanese si sono schierati in difesa dei manifestanti, separando le fazioni appunto politiche dai manifestanti. Un'ultima domanda sulle prospettive, perché sappiamo che il Libano è in un'area già di per sé calda, gioca un ruolo importante, ha un sacco di migranti, di profughi insomma sul proprio territorio. Un'instabilità in questo paese in prospettiva che scenari può produrre? È veramente molto difficile, quasi nessuno nessuno, anzi direi nessuno, si è ancora proposto a fare dei scenari futuri. Il Libano è un paese molto complesso e con un rischio di instabilità molto forte. La situazione, che oggi si è calmata parecchio, sono stati tolti i blocchi stradali e anche le piazze sono state liberate, in segno, credo, di accettazione di aver raggiunto almeno l'obiettivo della caduta del governo. Rimangono ovviamente in attesa di vedere i prossimi avanzamenti, quindi ci si aspetta che queste due settimane di chiusura di banche e scuole, che hanno influito pesantemente sul paese, una loro riapertura possa permettere almeno in parte ritorno alla normalità, ma sicuramente in caso in cui il governo non si proponga un nuovo governo che rispetti le aspettative della protesta, la situazione potrebbe sicuramente scalare. Non è prevedibile nessuno scenario, si può andare appunto nella soluzione pacifica a un ritorno come ha accennato appunto l'Ashrallah, il leader di Hezbollah, come ultima possibilità anche ritorno alla guerra civile in caso che non risoluzione della questione sociale. E ovviamente 1,5 milioni di rifugiati all'interno del paese non facilitano la situazione, è sicuramente il paese più influenzato negativamente dallo spostamento di rifugiati, in quanto il paese con la più alta densità di rifugiati per abitante al mondo in questo momento. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 10:13 minuti primi, riprendiamo le notizie dal mondo, partiamo dall'America perché gli USA riconoscono il genocidio armeno, il più grande crimine di inizio Novecento accaduto tra il 1915 e il 1916, dove l'impero ottomano, i turchi deportano e sterminano i cristiani dell'Armenia dell'Ovest, si stima tra 500.000 e 2 milioni di morte, è il più grande genocidio del secolo e in questo momento riconoscono effettivamente questo grave atto che è accaduto in Turchia. Questo riconoscimento, c'è una trentina di paesi che hanno già riconosciuto, tra cui l'Italia, questo grande genocidio. La Turchia si rifiuta, gli armeni lo chiamano il grande crimine, e dalla Turchia appunto Erdogan da Ankara dice il più grande insulto e minaccia di richiamare l'ambasciatore. Un'altra notizia sempre dal Medio Oriente, la militante curda salvata da un video di internet, però resta in mano ai suoi aguzzini. Sia benedetta la tecnologia, ci dice Giampaolo Cadalanu, perché grazie ai telefonini e la passione per i serbi che ha contagiato i gruppi di jihadisti impegnati contro i curdi nel nord della Siria, potrebbero essere state quelle immagini a salvare la vita della giovane curda che le compagne dell'unità femminile di protezione della JPG chiamano Çiçek Kobane, perché è nata nella città simbolo della resistenza curda dell'ISIS, quella che adesso Erdogan vuole ripulire dai terroristi, fra virgolette. Ferita la gamba nella battaglia del villaggio di Misrefa, vicino Andain Issa, è stata catturata da un gruppo di militanti filoturchi. E ancora notizie che apprendiamo dal mondo, c'è l'ira del presidente del Brasile Jair Bolsonaro perché il suo nome è uscito fuori nell'inchiesta sull'omicidio di Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes. È la prima volta che la più alta carica del Brasile finisce nelle carte del fascicolo su un caso che ha scosso il paese. Marielle Franco era una nota parlamentare attivista dei diritti umani che da anni denunciava gli omicidi nelle favelas da parte delle milizie di squadroni della morte formati da ex poliziotti e agenti in servizio e pompieri. Le indagini hanno finora portato in cella l'autore materiale del duplice omicidio, l'uomo che imbracciava la mitraglietta che uccise l'attivista con 13 colpi e l'autista che guidava l'auto del comando. Sono entrambi agenti della polizia militare. E Jair Bolsonaro si è subito lamentato di questa situazione. Due notizie che ci riportano al tema ambiente esteri. La prima, California, roghi fuori controllo, ora allarme rosso estremo. diramato il massimo rischio per la prima volta nella storia, coinvolti quanti? 26 milioni di cittadini in questo incendio, che così viene descritto così dal giornale, ma nel manifesto torna sull'argomento e titola in prima pagina già in un importante trafiletto: Apocalypse Now, clima e privatizzazioni. Quindi è un mix terrificante di cambiamenti climatici, ma anche di privatizzazioni che tolgono il territorio dalla sicurezza. Abitanti sfollati, immagini di isolazione e constatazione di che mutamenti climatici, infrastrutture obsolete, la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali stanno mettendo in ginocchio la popolazione dello Stato americano e un modello di governance sempre più inadatto. Questo nella patria del liberismo. L'altro tema ci riporta invece in Medio Oriente, quanto è difficile e pericoloso fare i contadini. Ed è sempre nell'extraterrestre del manifesto, Nablus, la paura e la raccolta delle olive. Nel villaggio di Burin, alcuni gruppi di europei, siamo in territorio palestinese, tra cui Slow Food, aiutano i contadini nella raccolta delle olive. Un fatto che dice, va a raccogliere olive. Un rito che sta trasformando in un tiro al bersaglio, perché i coloni scendono dalle colline, indossano maglie e maschere nere, sono giovani, portano mazze da baseball e spranghe. I coloni sono quelli, no, degli insediamenti ebraici abusivi. Questo è quello. Per chiudere la pagina internazionale, così ricca e anche drammatica, andiamo ancora in America Latina. Sì, volevo dare velocemente questa notizia sul Cile. A causa di troppa violenza, il Cile cancella tutti i summit internazionali. Santiago, la capitale, non ospiterà il vertice dell'APEC sui dazi e della conferenza ONU sul clima. Questa è a causa della pericolosità che è stata riscontrata dal mondo delle proteste iniziate con gli studenti appunto a Santiago. Cile, Haiti, che adesso vedremo, il Medio Oriente, insomma il mondo implode completamente. Allora nell'isola di Haiti sembra che non accorgersene, perché erano poveri prima, poveri dopo, poveri in mezzo. In realtà anche da Haiti si protesta, in particolare da un mese e mezzo, nella quasi totale indifferenza della comunità internazionale. Anche sui giornali non abbiamo visto tanto. Ed è in corso una rivolta antigovernativa contro il presidente Jovenel Moise, che catalizza la rabbia contro le drammatiche condizioni sociali che il paese vive e che lo rende uno dei contesti più poveri al mondo. E qui si gioca tra terremoto e epidemie. Su questo tema abbiamo sentito Andrea Zanni, che è referente del progetto umanitario del GVC We World ad Haiti, e sentiamo le sue parole. Le proteste risalgono, le ultime ondate di proteste da settembre, ma in realtà i motivi vengono da lontano, dal febbraio 2018, quando il governo ha annunciato che doveva concedere una decisione presa dal Fondo Monetario Internazionale per la riduzione delle sovvenzioni dei carburanti, benzina e diesel. Questo ha creato una serie di manifestazioni. Successivamente poi si sono anche associate manifestazioni contro il governo rispetto ai casi di corruzione legato al scandalo Petrocaribe. È un programma avviato nel lontano 2005 da Chavez, che prevedeva una distribuzione di carburanti a prezzi agevolati in cambio di progetti di cooperazione, un programma che comprendeva diversi paesi. Da quelle che è stato delle indagini che sono ancora in corso, ne sono verificati casi di corruzione che coinvolgevano i governi precedenti ma anche il governo attuale. Le manifestazioni sono tornate forti sempre per questo insieme di motivi. Stiamo parlando comunque, il contesto è di un paese che non è più governato, perché in questo momento esiste un presidente ma fondamentalmente il governo non ha funzioni, paralizzato sia dalle manifestazioni ma anche dalla mancanza, una crisi energetica, mancanza di carburanti, in quanto Haiti è completamente dipendente dall'esterno, quindi difficoltà alla ricezione della benzina e del diesel. Non hanno alternative perché tutto il sistema produttivo è legato ai carburanti, cioè nessuna produzione interna, non hanno una diversificazione energetica e quindi chiaramente tutto collegato. Questo determina chiaramente inflazione, e a questo punto è difficile spiegare esattamente qual è l'oggetto delle proteste. È ormai un insieme di fattori che determina una situazione grave di un paese al collasso, uno dei paesi più poveri dell'America Latina. Palestina, con indici di disuguaglianza tra i più alti al mondo, che vive di assistenza umanitaria. Quello che ti volevo chiedere su queste proteste è se sono, come dire, spontanee da parte della popolazione o ci sono anche gruppi organizzati che portano in piazza le persone? Da una parte sono manifestazioni spontanee, a partire anche dai quartieri più poveri, si muovono, si rincorrono, però nelle settimane c'è stata anche un'organizzazione. Ci sono partiti dell'opposizione che in qualche modo stanno coordinando in parte le proteste, o attori della società civile come gli insegnanti, gli attori, quindi artisti, che convocano, lanciano le mobilitazioni, che sono appunto ormai quotidiane. Però è vero che questa iniziale anarchia nell'ultimo periodo sta invece facendo emergere una struttura che è organizzata, almeno nella chiamata alle manifestazioni. Più difficile invece l'organizzazione di una posizione politica strutturata che possa presentare un'alternativa credibile al paese. Quali scenari futuri, come dire, se il presidente Moise se ne andasse cambierebbe qualcosa, e quali sono le prospettive per questo paese? È difficile dare una risposta, in quanto nel momento in cui il presidente lasciasse, cose che dubito, perché comunque c'è un appoggio internazionale, chiaro che poi magari a strada facendo la situazione diventa così insostenibile che anche potrebbe perdere questo appoggio, ma finché ce l'ha lui rimane al potere, e in tal caso ci sarebbero chiaramente nuove elezioni. E in questi mesi, in questi anni, si sono riorganizzati, diciamo così, alcuni movimenti, la società civile si sono organizzate in gruppi politici che hanno degli incontri, diciamo così, di sinistra progressisti, però c'è anche una posizione che invece è legata alla destra. Noi che lavoriamo lì ogni giorno, in qualche modo verifichiamo le condizioni sul campo, sulla possibilità di continuare o meno ad operare. Ogni giorno in qualche modo dobbiamo aggiornare la nostra situazione di sicurezza per poter verificare le possibilità di lavorare nel paese, e abbiamo una programmazione che è un po' alla giornata. In questo momento per esempio l'Unione Europea, che è il nostro principale finanziatore, ha evacuato il proprio personale espatriato, e questo chiaramente è un segno rispetto anche al contesto complessivo, perché chiaramente Haiti è un paese che vive di aiuti. Può essere che la situazione diventi così sostenibile che appunto il presidente Moise perde il sostegno degli Stati Uniti in particolare, quindi a quel punto si potrebbe aprire una fase di transizione, speriamo il più possibile democratica. L'alternativa potrebbe essere invece la divisione del paese per bande, l'anarchia completa, cosa che in parte è già così, nel senso che ci sono deputati e ministri che in qualche modo governano gruppi armati e che gestiscono parte dei traffici più o meno legali nel paese, quindi qui il rischio è quanto potrebbe essere anche la guerra civile. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 10:24 minuti primi, passiamo velocemente alla cronaca locale, siamo alla chiusura, pagina 9 di Bologna Repubblica, ci sono delle novità sul processo della bomba del 2 agosto alla stazione di Bologna, stiamo andando verso la chiusura, si è chiusa in questi giorni la fase dibattimentale del processo contro Gilberto Cavallini, accusato dalla procura di Bologna di avere avuto un ruolo di concorso nella strage del 2 agosto, 18 mesi di udienza e quant'altro, e il presidente della Corte Michele Leoni ha detto che può bastare così, o meglio che tutti gli elementi sono stati visionati. Il 13 novembre passerà la parola all'accusa con la requisitoria per illustrare le tesi, e poi sarà la volta delle parti civili e del difensore dell'imputato. Ancora una notizia riguarda i processi e i depistaggi su Cucchi, a cura di ministri e generali che devono dire la verità. La famiglia presenta la lista dei test per il processo agli ufficiali dell'arma, da Gallitelli, coinvolto direttamente, agli altri dell'arma dei carabinieri, del 7, Nistri e 30, e La Russa, e non è ancora cominciata la prima udienza, che sarà appunto il 12 novembre, ma il processo a 8 ufficiali dei carabinieri per il depistaggio delle indagini sull'omicidio di Stefano Cucchi promette di illuminare la storia non scritta dell'arma dei carabinieri in questi ultimi 10 anni, e con lei il conflitto sordo, senza quartiere, dissimulato tra i due comandanti generali che si sono avvicendati per l'omicidio di Stefano Cucchi nel 2009. Ultima notizia dal Carlino Bologna. Passante, muri antirumori ed alberi. La regione, ecco le mitigazioni ambientali per far l'opera a nord di Bologna. Ma i comitati sono sul piede di guerra, dice il Carlino. Le promesse non bastano. E Bonaccini, governatore della regione, sarà un'infrastruttura green. Lui dice, governa in linea con il comune, alberi, pannelli, fonoassorbenti, eravamo d'accordo con il precedente governo, ora faremo meglio. Ma dicono quelli dei comitati, a questo punto spalleggiati alla destra in campagna elettorale, che cavalcano questa vicenda, Bignami di Fratelli d'Italia, così si fa male alla nostra città, i lavori con comitanti e quelli del tram sarà il caos. Comunque il tema è comunque al centro della parte elettorale, determinante il dialogo tra Dem e Pentastellati. Allora, sono costi tempistiche del passante, 3 anni di intervento per circa 600 milioni. L'inquinamento, barriere antirumore, opera di mitigazione, viabilità e sicurezza, banchine e piazzole, limiti a 80 km orari. Con questo noi ci congediamo con le letture dei giornali, vi diamo appuntamento domani, ma naturalmente a seguire come sempre la trasmissione con Angela e Mago G, e quindi buon ascolto, ciao a tutti. Ciao a tutti.